Quella di un autunno difficile sul fronte economico e occupazionale è una visione che accomuna sia gli industriali che i sindacati e in vista di questa stagione molto dura partono le prove di dialogo fra le due categorie. Dopo gli strappi degli ultimi mesi e dopo la pausa estiva, Confindustria e CGIL si incontrano e cercano una strada da condividere. Il presidente Emma Marcegaglia lancia un appello. Per cercare di uscire meglio dalla crisi ci deve essere un ruolo importante anche di Confindustria e sindacati, quindi ho fatto un appello anche a Epifani perché tra di noi prevalgano più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci separano. Il clima fra le parti appare sereno, il numero uno di Viale dell'Astronomia definisce molto costruttivo l'incontro con il segretario della CGIL, così Guglielmo Epifani. Spero che ai tavoli di trattativa delle categorie possano esserci quelle aperture che possano consentire un clima diverso, questo lo diranno i fatti. Non possiamo basarci sulle parole. C'è un tema che ci divide, dice Epifani, che è il modello contrattuale. Abbiamo avanzato le nostre osservazioni e spero, conclude il segretario, che Confindustria faccia qualche passo in avanti. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.